sera, pensare lontano, la mia anima spera. In una stella cometa, lontana anni luce, dov'è la sua meta? La sento vicino, allora sto male, non so cosa fare, mi par di annegare. Vola il pensiero, lontano con lei, non riesco a capire perché. Il passato ritorna, i miei ricordi con te. Sei tu quella stella, resta ancora con me. All'alba la luce del sole spegne la stella, il vuoto fa male. Solo un sogno, io una stella, è la storia che voglio. Io non la stringo, l'amo soltanto, ne vale la pena amare ogni tanto. Vivo la musica, la invento per te, per averti ogni tanto con me. Sulla riva del mare mi ricordo di te, ricomincio a pensare, ora so cosa fare.